Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto da Armando Torno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. La puntata di oggi è in collegamento con Lugano perché il 18 aprile comincerà il Festival di Musica di Lugano. È un appuntamento che non perdiamo mai, un punto di riferimento abbastanza affascinante, internazionale, con mille novità. E tra l'altro quest'anno abbiamo in collegamento con noi il nuovo direttore di Lugano Festival, che è il maestro Etienne Raymond. Molto semplicemente vi diremo che parla italiano, quindi non avremo bisogno di traduzioni o d'altro. Io ricordo che comincia la sua carriera come maestro collaboratore alla Scala e quindi è un musicista che ha lavorato con Abbado, con Muti. Ricordo l'ultimo suo incarico, che è segretario artistico alla Tonhalle di Zurigo. Poi ha avuto moltissimi altri incarichi, ma magari ce li racconterà lui. Ora è il direttore di Lugano Festival proprio da quest'anno ed è con noi alla radio questa sera. È con noi per confessare un po' di cose, per rivelarci qualche particolare e soprattutto per fare una chiacchierata e ascoltare musica. Buonasera, maestro Raymond. Buonasera a tutti. Grazie. Lei parla un eccellente italiano, vorrei parlare il francese come lei parla l'italiano, ma purtroppo non mi è possibile. Ma, insomma, non so, me la cavo, insomma. Ecco, maestro, lei è arrivato a Lugano e quindi sta già organizzando tutto, è già tutto pronto. Il 18 con che cosa aprirete? Il 18 aprile, dunque, apriamo Lugano Festival, non a Lugano, ma a Bellinzona, con il tradizionale concerto di Venerdì Santo, che viene organizzato a Lugano da tantissimi anni. E solitamente si suona alla Cattedrale di Lugano, che adesso sta in restauro. E dunque è inagibile. E già l'anno scorso il mio predecessore ha avuto l'idea di trasferire questo concerto a Bellinzona, che è il capoluogo del Ticino, come sappiamo, e siccome, come dappertutto per i monumenti storici, i lavori vanno molto molto lentamente, penso che almeno l'anno prossimo nuovamente ci sposteremo a Bellinzona. E quest'anno apriamo con la seconda sinfonia di Mendelssohn, il Lobgesang. E questo è il concerto del Venerdì Santo, appunto. Giusto. Ecco, ma poi ovviamente il vostro festival comincerà subito dopo Pasqua per arrivare sino a giugno, mi pare. Allora, sì, il festival dura sempre, di fatti, da Pasqua fino a fine giugno. Praticamente si svolge in due parti. La prima parte, che è la parte più storica di Lugano Festival, con soprattutto orchestre ospite, ma anche due concerti suonati dall'Orchestra della Svizzera Italiana. E questa prima parte si termina all'inizio giugno, poi dopo qualche giorno di pausa comincia adesso nella sua 13ª edizione il progetto Martha Argerich, che è dunque un festival di musica da camera prevalentemente, dove la grande Martha chiama i suoi amici attorno a lei e fanno musica da camera per tutto un mese, per tutto il mese di giugno. Certo, certo. Ma ora chiediamo al maestro, ma perché abbiamo ascoltato Le nozze di Figaro? Avete qualche esecuzione nel vostro programma? Allora, era una scelta personale, tutto personale, glielo confesso. Lei mi ha chiesto di scegliere qualche musica certo, che sono importanti per me, e devo dire che per me Mozart è il massimo, è il più grande compositore, e penso che quest'area di Susanna è il momento dove tutto si ferma. Certo. Questa folle journée delle nozze di Figaro, e anche difatti è quasi l'unica aria di Susanna, ne ha una piccola brevissima un po' prima. Sì. E insomma è come lei diceva giustamente, uno dei massimi momenti della storia della musica. E poi devo dire, sa chi lo suonava ogni tanto? Ebbene, era Friedrich Gulda che certo. le faceva delle trascrizioni e che le faceva, le dava come bis, e l'ho sentito una volta suonato da Gulda e sono rimasto colpito. Gulda, che era una persona, ovviamente sappiamo tutti, molto, molto divertente e così. Ricordo che ha cominciato un recital con il concerto italiano di Bach, suona il primo tempo, come sa lui non suonava da tempo più in frac, ma così casual. Poi dopo il primo tempo si ferma, si alza e dice: signori e signori, la musica è di Johann Sebastian Bach, la mia giacca è di Gianfranco Ferré, tutte e due sono nello stile italiano. Adesso vado avanti. E dunque Gould è uno degli artisti che ho un po' conosciuto, e volevo fare un piccolo omaggio, un grande omaggio a Mozart. Però suoneremo Mozart nell'ambito di Lugano Festival, il secondo concerto, che verrà diretto da Gustavo Dudamel. E sarà quando, maestro? Che sarà il 23 di aprile, dunque lì saremo tornati a Lugano, e lui suonerà la Sinfonia Praga di Mozart, attorno a, insomma, in un piccolo quadro di Sibelius, perché comincerà con il Cigno di Tuonella, e in seconda parte suonerà la seconda Sinfonia di Sibelius. E dunque era un grande omaggio, piccolo grande omaggio a Mozart. Magnifico. Senta, maestro, poi tra le altre cose lei ha scelto le musiche. Io questa volta sono stato rigorosamente obbediente. Ah, la ringrazio, ma non era un ordine, era un suggerimento, signor Sorno. La Sagra della Primavera di Stravinsky, e tra l'altro ha scelto l'edizione con Igor Markievicz. C'è un motivo per questa esecuzione? Sono due motivi. Il primo motivo, che è insomma un pezzo, un momento molto importante nella storia dell'orchestra. Come sappiamo, la Sagra della Primavera per tanti anni è rimasto un pezzo molto difficile da eseguire. Adesso quasi le orchestre del conservatorio lo possono suonare. E Igor Markievicz è stato il primo direttore a eseguire e registrare la registrazione che ascolteremo, la Sagra della Primavera, tutto insieme, senza sbagli, l'orchestra che suonava tutto insieme, pulito, insomma. All'inizio degli anni 50, dunque 40 anni dopo la prima assoluta della Sagra. Poi per me Stravinsky, dopo Mozart, fa parte dei miei tre compositori preferiti. C'era anche, devo dire, una ragione personale, perché ho avuto il grande onore di conoscere Igor Markievicz, che era molto legato alla Svizzera, perché era nato in Russia, in Ucraina, cui si parla tanto adesso, ma questi giorni, ma quando era giovanissimo è arrivato in Svizzera, e dunque aveva tanti legami con la Svizzera francese, legami che Stravinsky anche lui aveva, come sappiamo. Ecco, lui tra l'altro morì nell'83, quindi una trentina d'anni fa abbondanti. Esatto. E aveva formato una grande scuola di direzione d'orchestra, e aveva avuto degli allievi famosi come Savalis, come Blomstedt, come altri. Era una persona abbastanza affascinante, che conosceva, aveva conosciuto i ballet russi, come sappiamo, quasi l'ultimo pezzo commissionato da Diaghilev era un pezzo commissionato a Markievicz. Certo. Markievicz era sicuramente un pezzo nella storia, pezzo importante nella storia della musica e della storia dell'interpretazione. Voi avete qualcosa di Stravinsky a Lugano? Sì, abbiamo questo è l'aggancio, abbiamo lunedì 19 maggio avremo la Mahler Chamber Orchestra diretta da Leif Ove Andsnes, che sarà anche il solista, e cominceranno con il Dumbarton Oaks, che è un pezzo delizioso per orchestra da camera, scritto negli anni 30 da Stravinsky. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Turno dai microfoni di Radio 24. Questa sera siamo in collegamento con il maestro Etienne Raymond, che è il nuovo direttore di Lugano Festival, e con lui stiamo parlando un po' dei programmi ma anche delle sue passioni, perché vale la pena andare a questo festival della Svizzera italiana e perché è diventato così importante. Tra l'altro, maestro Raymond, io le volevo chiedere, lei che ha avuto un bel curriculum, e tra l'altro io insomma vorrei ricordare gli inizi della sua carriera alla Scala di Milano come maestro collaboratore con Abbado, con Muti, cioè momenti anche, diciamo così, di grande fascino. Vorrei chiedere a lei, adesso che dirige questo festival, come si fa ad arrivare a Lugano. I nostri ascoltatori, che sono sparsi un po' in tutta Italia, e non soltanto, perché veniamo ascoltati anche grazie a internet un po' all'estero, non dico chi ci ascolta a Mosca, perché c'è sempre un gruppo di persone che ci ascolta a Mosca, non dico chi ci ascolta, che so io, lontano, ma tutti coloro che si trovano, diciamo, in una zona abbastanza raggiungibile, come si fa a prenotare, come si fa arrivare al festival di Lugano, al Lugano Festival, e ad ascoltare le opere, ad sapere che c'è un posto, quanto costa, eccetera, eccetera? Beh, insomma, semplicemente direi due cose, che c'è il sito internet, di cui forse do l'indirizzo, è molto facile, www.luganofestival.ch, che è il simbolo della Svizzera, della appunto. Svizzera. Sì. Lì si vedrà dunque i numeri di telefono, dal 7 aprile si può ordinare i biglietti, c'è il numero di telefono, c'è l'email, c'è il programma, il cartellone. E poi, come la seconda cosa, come si va a Lugano, insomma, soprattutto dal nord Italia non ci sono difficoltà, perché come sappiamo ci sono ottimi collegamenti con l'autostrada, con il treno anche. E forse se qualcuno volesse scegliere un momento piuttosto di un altro, io direi che quest'anno presenterò un piccolo ciclo, breve, modesto ciclo, a Richard Strauss. Come sappiamo, quest'anno è il 150° anniversario della nascita, ciclo che apriremo con l'Orchestra Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Chailly, che verranno a suonare tre pezzi molto importanti di Strauss, che sono Morte e Trasfigurazione, Till Eulenspiegel e i Vier Lieds der Lieder, con Anja Harteros. Questo è il 7 maggio, e ne ho approfittato per aggiungere qualche cosa attorno a Strauss, che sarà una cosa, penso, che si vede pochissimo, che è una versione cinematografica del Cavaliere della Rosa, che è una versione muta, che è stata girata nel 1926 in bianco e nero, e per la quale il regista Robert Wiehe ha chiesto a Strauss di riscrivere un po' la sua musica. È dunque una seconda versione del Cavaliere della Rosa, e questo si potrà vedere in un cinema, al cinema Iride a Lugano. Sono previste 4 proiezioni, e per quelli che conoscono bene il Cavaliere della Rosa, finalmente si vedrà il maresciallo, che non si vede nell'opera, il Feldmarschall. Dunque in questa versione lo si vede. E poi ho organizzato un concerto di musica da camera con studenti e docenti del Conservatorio della Svizzera italiana, tra l'altro Bruno Giuranna, che è un docente eccellente qui a Lugano e nel mondo, e gli ho chiesto di suonare la primissima versione delle Metamorphosen, che Strauss aveva cominciato molto giovane e che aveva scritto per 7 archi, e poi l'aveva lasciato da parte, e alla fine della sua vita, quando Paul Zacher a Zurigo e Basilea ha chiesto un pezzo per il suo orchestra, ha ripreso e ne ha fatto la versione che conosciamo. Dunque anche una, penso che se questi due o tre concerti, insomma, forse saranno una ragione sufficiente per i nostri amici per venire a Lugano. Ecco, io ricordo ancora appunto il sito dove si trovano tutte le indicazioni e anche i numeri di telefono per prenotare i biglietti dal 7 aprile, www.luganofestival.ch. Esatto. Ecco, quindi è molto facile e si può un po' capire anche qual è tutto il programma. Questa sera l'abbiamo diciamo così presentato, visto da vicino, visto da lontano, ma poi bisogna averlo un po' davanti per scegliere con le date, con la propria agenda. Ecco, maestro Raymond, lei però mi ha consigliato di far ascoltare un brano di Bach. Io di fronte a Bach mi arrendo sempre, anche perché lei ha scelto la partita in si bemolle maggiore BWV 825 nel catalogo L'Allemand con Ton Koopman. Io la farò ascoltare, la facciamo ascoltare tutta, sono 5 minuti. Ma perché Johann Sebastian Bach? Mi pare che lei non abbia nel programma Bach. No, purtroppo quest'anno non c'è un pezzo di Bach, insomma non si può suonare tutto, ma giuro che nelle prossime edizioni ci sarà sempre un pezzo di Bach, soprattutto quando Lugano Festival verrà trasformato in una stagione annuale, in coincidenza con l'apertura del LAC, che è la nuova sala da concerto a Lugano, che aprirà a settembre 2015. Giuro che ci sarà sempre Bach. Bach perché insomma Bach è una montagna, è un monumento, e nello stesso tempo il rigore e la libertà, nello stesso tempo la legge, ma anche tutte le sfumature dei sentimenti, e per me Ton Koopman è uno dei pochi musicisti che sa rendere tutto quanto, tutta questa ricchezza con il suo clavicembalo. La ragione perché ho scelto questa interpretazione. La nuova sala che sta per essere pronta a Lugano, e sappiamo che gli svizzeri su quello non hanno, diciamo così, dei ritardi. Se facessimo questa previsione per qualcosa di italiano, dovremmo prendere tutti i benefici di inventario. Dico bene, maestro Raymond? Sì, ma sa, costruire qualcosa prende sempre un po' più di tempo di quanto è previsto. Certo, però lei che è uno svizzero francese, ovviamente, e lavora con gli svizzeri italiani, ci può tranquillamente dire che in Svizzera i ritardi sono ragionevoli? Sì, questo è giusto, anche se insomma, un po' di ritardo può esserci, ma veramente è deciso settembre 2015, apre Lugano Arte e Cultura, no, Lugano LAC. Le dico questo perché il ponte sullo stretto di Messina in Italia è stato progettato all'inizio degli anni 50 e venne anche messo un francobollo che io ho trovato un giorno in un mercatino. Ah, sì? Per l'erigendo ponte sullo stretto di Messina ho trovato un francobollo del 53. E lei mi dice se vede il ponte o se qualcuno l'ha visto, insomma, non ha visto solo continui progetti, ecco, e poi non si farà probabilmente, e quasi sicuramente, o non so, lo faranno dei nostri nipoti, chissà quando e chissà come, però ecco. Ma passiamo alla musica, maestro, perché la musica almeno non la possiamo tradire completamente. Lei ha scelto Debussy, Pelléas et Mélisande. Ma perché, maestro, Debussy? Ha in programma qualcosa? No, neanche qui, purtroppo non c'è. È un altro amore, allora. Però un altro amore, come gli dicevo, dunque dopo Mozart ci sono per me tre compositori massimi, che sono Bach, Stravinsky e Debussy. E proprio, devo dire, proprio alla Scala, lei parlava della Scala, quando ho avuto l'onore di lavorare in questo teatro, il maestro Abbado ha fatto una produzione fantastica di Pelléas et Mélisande, che per me è stato veramente una cosa bellissima, e mi sono innamorato di quest'opera. Debussy comunque uno dei massimi compositori, e ho scelto un interludio orchestrale dal quarto atto che è tipico praticamente di questo periodo attorno al 1900, così interiore, che fa pensare a tutti i sentimenti, turbamenti dell'anima, quasi psicoanalitico, quasi. L'ho scelto nell'interpretazione bellissima in un concerto che è stato fatto a Parigi qualche anno fa. Ecco, le volevo chiedere questo, per il prossimo Lugano Festival c'è qualcosa vicino a Debussy, alla sensibilità di Debussy? Sì, dunque l'ultimo concerto della prima parte, il 3 giugno, verrà suonato dall'Orchestra della Svizzera Italiana e Enrico Dindo suonerà il concerto per violoncello di Saint-Saëns e anche l'elegia per violoncello di Gabriel Fauré. Gabriel Fauré, che è stato un grande sostenitore di Debussy quando Fauré era nel direttore del conservatorio di Parigi, ha aiutato molto Debussy e l'ha sostenuto insomma tutto il tempo possibile, e questo è il piccolo legame con la programmazione di quest'anno. Senta maestro, io ripeterei, perché il tempo è volato e sta volando, abbiamo circa un minuto, ripeterei l'indirizzo del sito per tutti coloro che vogliono in qualche modo, diciamo così, dare un'occhiata ai programmi, ai costi, alle possibilità, è www.luganofestival.ch. Esattamente, dunque dal 7 di aprile in poi si può avere i biglietti, se no si può sempre scrivere telefonare, insomma noi siamo qui e veramente non siamo lontani da Milano e dall'Italia. Ecco, maestro, tenga presente che lei ci ha promesso, diciamo così, una nuova visita, forse di persona, forse al telefono, ma a giugno, per fare un bilancio del festival, e quindi lei ha un debito con noi, Con il più grande piacere, signor Torno. La ringrazio, maestro Etienne Raymond. Io non l'ho grecizzato in Stefani il suo nome, quindi rimane per noi maestro Etienne. Ecco, anche per questa volta. E le do appuntamento, diciamo così, a giugno con i nostri ascoltatori, e ovviamente le diciamo tutti in coro in bocca al lupo. Grazie mille e crepi lupo. Bene, grazie a voi cari ascoltatori, a risentirci domenica prossima alle 21 come sempre. Un cordiale saluto da Armando Torno e da Etienne Raymond.